falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Questa è una storia drammaticamente grottesca eppure significativa, e che ci parla di un popolo, il popolo brasiliano. Il personaggio di cui noi vi andiamo a raccontare la storia è stato il portiere della nazionale di calcio brasiliana, la nazionale più titolata al mondo. Ma questa volta non ci sono titoli per il Brasile, perché noi vi racconteremo una notte speciale, per certi versi tragica, perché vi racconteremo quella notte del 1950, finale del campionato del mondo, quella che ancora oggi molti brasiliani ricordano come l'evento più tragico della storia del loro paese. E vi diremo il perché, raccontando la storia di un uomo che in quella partita era tra i pali, il portiere Moacir Barbosa. Siamo negli anni 20 e le spiagge brasiliane non sono come le vediamo oggi, con la gente felice che gioca sulla spiaggia a calcio, a pallavolo, le ragazze bellissime che prendono il sole, i micro bikini, eccetera. Però c'erano comunque i bambini. E i bambini giocavano a calcio e inseguivano, come oggi, il sogno di diventare campioni. E Moacir Barbosa Nascimento è uno di questi. Siamo a Campinas, nel distretto di São Paulo, che confina con Rio. Barbosa nasce qui nel 1921, in anni in cui la manifestazione che tutti oggi chiamano Coppa del Mondo, che una volta si chiamava Coppa Rimé, ancora non esiste. Non si sa molto dell'infanzia di Barbosa, ma noi ce lo vogliamo immaginare come un bambino che gioca a piedi nudi tra le strade sterrate di un quartiere povero di una città in forte espansione, una città che oggi conta più di 1 milione di abitanti, ma che negli anni 20 non aveva quella prosperità che ha guadagnato con gli anni. Moacir sembra avere fin da piccolo qualche dote in più, ottimi riflessi, si muove bene, è veloce e sono doti che possono essere molto utili quando si gioca a calcio. E infatti Moacir si dedica al calcio fin da piccolo, viene subito notato e quando il bambino diventa grande si ritrova a giocare in una delle squadre di San Paolo più forti di quei tempi, l'Atlético Ipiranga. La ponta direita para Friassi, che lutou contra Rodrigues Andrade, perdeu, mas Zizinho recupera. Mandando di nuovo il brasileiro para ataque, Ademir servido na entrada da área, empurrou para Friassi. Le cronache brasiliane sono veramente incredibili, sono pezzi di teatro in cui si ride, ci si entusiasma, in alcuni casi si piange. Poi negli anni 30 le cronache sono solo radiocronache, per cui un commentatore deve essere ancora più bravo nel raccontare, perché deve essere gli occhi della gente. In Italia c'è Niccolò Carosio, che negli anni della radio racconta i successi della nostra nazionale. Stadio parigino di Colombe, finalissima della Coppa del Mondo 1938 fra Italia e Ungheria. La nazionale azzurra è pervenuta alla finale per il titolo mondiale battendo la Norvegia a Marsiglia per 2-1. Ma torniamo al nostro protagonista, Moacir Barbosa, che gioca in un ruolo che è sempre stato il punto debole del Brasile, almeno fino agli ultimi 10 anni, perché lui fa il portiere. Eppure è bravo, ha un grande senso della posizione, si butta con coraggio incontro agli avversari, poi sa parare i rigori. E grazie a queste doti, dall'Ipiranga, Barbosa arriva a giocare in una delle 4 squadre più importanti di Rio de Janeiro, il mitico Vasco da Gama. Olhos uma chacrete e o pessoal na pior é pé. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama sono le quattro squadre più importanti di Rio de Janeiro. La concorrenza è tanta, se non sei bravo la carriera finisce subito perché ci sono molti in fila che aspettano solo un tuo errore per sostituirsi. Ma Barbosa è uno forte e anche il suo carattere è forte, ha personalità. Tra l'altro il portiere del Vasco da Gama si chiama Gabriel Rodriguez, il golero come si dice in Brasile, e succede una cosa particolare perché questo Rodriguez vince 200.000 cruzeiros alla lotteria brasiliana e quindi lascia il calcio perché non ha più bisogno di soldi. E allora Moacir Barbosa, grazie alla fortuna che ha avuto un suo compagno di squadra, in realtà ha una fortuna ancora maggiore, diventa titolare. Foi un goleiro revolucionário para a posição. Era un portiere assolutamente rivoluzionario per il suo modo di giocare. Tutti i portieri dell'epoca non si muovevano dall'area piccola e difendevano la porta solo con le mani. Barbosa cominciò a muoversi in tutto il resto dell'area. Era fortissimo nel difendere la palla sui calci d'angolo e sapeva usare i piedi come nessun altro suo collega. Una novità negli anni 40. E quindi un precursore, uno tipo Neuer, il portiere della nazionale tedesca, quella che quest'anno ha battuto il Brasile 7-1. C'è un portiere che sa giocare anche coi piedi, anche fuori dall'area. Una cosa molto molto interessante. Quindi in teoria sta partendo una grande carriera. Il Vasco da Gama è considerato in assoluto la squadra più forte del Brasile. Barbosa debutta nel 1945. 11 campioni allenati da Undino Vieira, che hanno vinto 11 campionati di fila, due dei quali senza neanche perdere una partita. La squadra viene soprannominata Espresso da Vittoria, l'espresso della vittoria, perché è considerata un treno capace di travolgere qualsiasi avversario. I campioni si chiamano Ademir, Jair, Lele e tanti altri che compongono questo team stellare nel quale il numero uno è lui, Moacir Barbosa. E c'è un metodo nuovo, mai visto prima, 4-2-4, che sarà poi la fortuna anche nella nazionale brasiliana. All'epoca la nazionale veste in maglia bianca ed è composta da buona parte dei giocatori del Vasco. E anche Barbosa nel 1949 diventa un componente della selezione. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie. Falco e il Gabbiano. Moacir Barbosa Nascimento ha conquistato la maglia da titolare nel Vasco da Gama, che è la squadra più forte del campionato carioca in quegli anni. Grazie a vittorie nel campionato, nella Coppa Libertadores, che è la Coppa dei Campioni sudamericana, è già entrato nella storia del calcio e nel cuore di tutti. Ricordiamo che il calcio in Brasile è una vera e propria religione, lo sapete, le imprese della nazionale sono seguite da tutti con un trasporto emotivo eccezionale. Ogni brasiliano prende a cuore le vicissitudini della propria nazionale e vive in prima persona le emozioni legate ai risultati sul campo. Si può vivere un'enorme gioia, ma si può anche soffrire per un incredibile dolore. Salve, salve il nostro stadio municipale no campeonato mondiale. Salve la nostra bandiera verde orianil. Brasil, Brasil. Nel 1950 il Brasile ha ottenuto di poter organizzare il quarto campionato mondiale di calcio. È finita da poco la seconda guerra mondiale, il calcio può servire a riunire i popoli e dopo l'Uruguay, l'Italia e la Francia tocca ai brasiliani dimostrare di essere una nazione in grado di affrontare il complesso meccanismo organizzativo di un mondiale. Nel 1945, dopo la caduta del generale Getúlio Vargas e la salita al potere dei suoi oppositori, si sente la necessità di far vedere al mondo che il Brasile è in grado non solo di organizzare il campionato, ma anche di vincerlo. Esattamente come aveva fatto Mussolini prima della guerra, quando aveva guadagnato consensi politici anche grazie alla doppia vittoria nei mondiali della nazionale di Vittorio Pozzo nel 1934 e nel 1938. Non esiste Zizi per dimostrare al mondo intero che il Brasile si stava affermando come la maggior potenza economica del Sud America, si decise di costruire un simbolo che mostrasse questa superiorità economica e organizzativa. Nel 1948 iniziò la costruzione di uno stadio da 200.000 posti, una struttura sportiva che in nessun paese era mai stata costruita. Come viene detto in questo documentario dell'emittente ESPN, il Brasile è un paese con forti differenze sociali. La maggior parte della popolazione è analfabeta, probabilmente anche per questo, insomma, i generali hanno potuto prendere facilmente il controllo della nazione. E l'organizzazione di un campionato mondiale con la chiara prospettiva di una vittoria del Brasile è molto più di una campagna elettorale. Può diventare un riconoscimento ufficiale a un regime che controlla e limita le libertà personali e che si arricchisce a danno della parte più povera della popolazione. Questa è una storia che sentiremo più volte nel rapporto tra sport e politica. E il calcio è una buona medicina per nascondere i malanni di un paese. Il Brasile necessitava di una grossa dose di autostima per affermarsi al mondo intero come una potenza economica. In Brasile c'erano solo stadi con un numero limitato di posti. L'idea proposta alla FIFA di costruire lo stadio più grande del mondo fu una proposta vincente. Tra l'altro la nazionale brasiliana è comunque una squadra fortissima, perché intanto è composta da molti giocatori del blocco del Vasco da Gama, che solo un anno prima ha conquistato la Coppa America battendo tutte le avversarie. E poi c'è all'attacco Ademir con Zizinho, un attacco implacabile, e in porta c'è una fortezza impenetrabile, almeno fino a quel momento, e la fortezza è Moacir Barbosa. Il 1950 sembra quindi essere l'anno della svolta per la storia del Brasile, perché tutti sono convinti che il mondiale verrà dominato e stravinto dalla nazionale carioca in quello stadio che sorge nel quartiere di Maracanã, che è veramente imponente. Magari non sarà ancora terminato per l'apertura del mondiale, e infatti su alcuni lati si vedono ancora le impalcature che sostengono le gradinate, però è lo stadio Maracanã. Verrà completato 15 anni dopo, ma alla gente non importa. Quello che conta è che lo stadio sia accessibile e che il campo sia coperto da un manto erboso perfetto. Il Brasile può esporre a tutto il mondo il proprio gioiello, basta inquadrare il campo e lo stadio nei posti giusti. Le persone che questo stadio può contenere sono 200.000. Solo negli anni successivi, per le carenti condizioni di sicurezza, questa capienza verrà ridotta, ma in quel momento il Maracanã è il primo stadio del mondo. Sobre il mapa del mondo, il grafico de unos viajes decisivos para la historia del fútbol contemporáneo. Los equipos de toda Europa y América, vencedores en las eliminatorias previas, se dirigen hacia el Brasil, nación a la que ha correspondido ser escenario del cuarto campeonato mundial. L'edizione del 1950 è anomala perché si fanno sentire ancora gli strascichi della guerra. Intanto Germania e Giappone vengono escluse in partenza in quanto potenze sconfitte. L'Italia viene ammessa perché è il campione in carica, però in Italia c'è appena stata la tragedia di Superga in cui è stata annientata tutta la squadra del grande Torino di Valentino Mazzola. Così i calciatori hanno paura, decidono di partire in nave, compiono un viaggio di 3 settimane, a metà strada perdono i palloni, quindi non si possono neanche più allenare per i palloni finiti in mare. Insomma, è una spedizione che l'Italia vive in maniera piuttosto zoppicante già dall'inizio. L'India, che si era qualificata, viene stromessa perché i giocatori sono abituati a giocare a piedi nudi e non vogliono sottostare ai regolamenti FIFA. La Scozia e la Turchia rinunciano a partecipare all'ultimo momento. Insomma, la crisi che segue alla guerra si fa sentire. Alla fine partecipano solo 13 squadre a questo campionato, 5 sudamericane, 2 nordamericane e 6 europee. Il mondiale comunque è sempre il mondiale, non è un torneo rimaneggiato senza squadre forti. Certo, il Brasile è favorito, la stampa incoraggia la squadra e prepara la popolazione inneggiando la vittoria fin dall'inizio del torneo. Però troppo in anticipo, si sa, è una gufata, porta male. Il torneo venne organizzato in gironi. C'erano due gironi da quattro squadre, uno da tre, uno addirittura composto solo da due squadre. Alla fine della prima fase le quattro vincitrici si sarebbero scontrate in un unico girone. La squadra con più punti avrebbe vinto. Questo significa che quel mondiale passò alla storia come l'unico a non aver avuto una finale. Quando si gioca un mondiale i risultati non sono mai scontati, e lo sa bene l'Inghilterra, che si presenta per la prima volta perché fino a quel momento non ha mai voluto giocare ai mondiali ritenendosi troppo superiore alle altre squadre. Bene, si presenta e viene sconfitta dalla modesta nazionale degli Stati Uniti. Una piccola tragedia che gli inglesi assorbono con un aplomb ben diverso da quello che succederebbe se perdesse il Brasile, perché a volte basta sbagliare una partita per rovinare un sogno. Bene, per sapere come finirà quel mondiale e come finirà la storia di Moacir Barbosa, restate con noi perché torniamo tra poco. Deus de Deus de dato da magia, tu vem pro mal primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus dê. Il Brasile sta giocando il campionato del mondo del 1950, è un campionato fortemente voluto in cui sembra già tutto scritto, anche il nome del vincitore. Il portiere del Brasile è Moacir Barbosa, che sta per vivere un colpo d'ala, che però anziché portare verso l'alto questa volta lo porterà verso il basso e lo segnerà per tutta la vita. Comunque, l'ultima partita del campionato è Brasile-Uruguay. Il Brasile ha vinto le due partite del girone, l'Uruguay ne ha vinta una e ne ha pareggiata un'altra, quindi il Brasile ha 4 punti e l'Uruguay 3. Basterebbe al Brasile un pareggio e il Brasile sarebbe il nuovo campione del mondo. Il giorno della partita finale sembrava già tutto scritto a copione. Fotografi che si accalcavano solo per immortalare i giocatori brasiliani. Elogi, ringraziamenti, esponenti della politica che scendevano in campo per congratularsi personalmente con questo o quel giocatore. Il problema era però che dall'altra parte del campo c'era l'Uruguay. La Celeste, come viene soprannominata la nazionale uruguaiana, non fa paura. Viene considerata una squadra decisamente inferiore, eppure l'Uruguay ha già vinto una Coppa del Mondo, la prima, quella del 1930, organizzata da loro stessi, perché precedentemente alle Olimpiadi l'Uruguay aveva sempre dominato. I tempi del morso di Suarez a Chiellini erano ancora lontani, però tra gli uruguaiani c'erano molti campioni. Uno di questi si chiama Schiaffino e oggi è considerato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Il giorno della partita, un giornale brasiliano uscì con un titolo in prima pagina: Campione del mondo, prima della partita. E arriviamo al 16 luglio 1950. Lo stadio è strapieno, ci sono 200.000 persone, praticamente tutte tifano Brasile. All'entrata delle squadre in campo vengono sventolati centinaia, migliaia di fazzoletti bianchi, e mentre la banda suona gli inni nazionali vengono liberate decine di colombe bianche. Uno spettacolo incredibile che però, a parte i 200.000 sugli spalti, nessuno può vedere, perché l'unico modo per seguire la partita a quei tempi è la radio. Direttamente do Estádio Mendes de Moraes, irradiando la Radio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, con la rede di emissoras nazionali controllata per l'Agenzia Nazionale. Moacir Barbosa è tranquillo, anche se l'emozione di vedere tutta quella gente che acclama la squadra lo mette un po' in difficoltà, ma lui si trova nello stadio più bello del mondo, nel paese più bello del mondo, e quel giorno sa che sta per vincere la Coppa del Mondo, la prima per il Brasile. Ne è fermamente convinto perché nei giorni precedenti tutti, giornalisti, dirigenti sportivi, calciatori, tifosi, non fanno che ripetere alla nausea che il Brasile vincerà, che sarà campione del mondo. In realtà, anche se pareggia, se sarebbe campione del mondo. Troppo facile, eppure forse tutti stanno vivendo una grande illusione. nei giorni precedenti alla partita sono state vendute 500.000 magliette con la scritta Brasile campione 1950. La storia sembra ormai scritta, l'Uruguay è una vittima sacrificale per celebrare il trionfo della Selezione. Il prefetto del distretto federale, il generale Mendes de Moraes, pronuncia un discorso che non fa altro che aumentare la pressione sui giocatori brasiliani. Voi brasiliani, che io considero vincitori del campionato del mondo, voi giocatori, che tra poche ore sarete acclamati da milioni di compatrioti, voi che avete rivali in tutto l'emisfero, voi che superate qualsiasi rivale, siete voi che io saluto come vincitori. Non dire gatto se non l'hai nel sacco, disse un po' di anni dopo Trapattoni. Aveva ragione. Intanto il primo tempo già termina 0-0. Il Brasile attacca e l'Uruguay prova a ripartire in contropiede. Che già è strano, perché il Brasile, invece di tenere il pareggio, con la classica indole, a volte un po' spettacolarmente spocchiosa dei brasiliani, la partita la vuole addirittura vincere. E finalmente, all'inizio della ripresa, il Brasile passa in vantaggio. E il Maracanã esplode. Servito un'entrata d'aria, impugnò con la piazza, pensò, entro l'aria, tirò. Vai, è una liberazione, il gol tanto cercato alla fine è stato segnato. I giocatori arrivano all'apice della felicità e questo però, come spesso accade nel calcio, provoca appagamento da parte dei primi e una reazione inaspettata da parte di chi il gol l'ha subito. E forse la tensione accumulata si scarica improvvisamente, perché il Brasile a quel punto è già pronto a festeggiare e smette di giocare, smette di combattere e i suoi attaccanti spariscono come fantasmi al centro del campo e l'Uruguay piano piano comincia a prendere terreno, a guadagnare metri su metri in campo fino ad avvicinarsi pericolosamente alla porta del Brasile, difesa da Moacir Barbosa. Questa pressione porta alla prima sorpresa della giornata. Schiaffino pareggia. La squadra allenata da Flavio Costa, ex stella del Flamengo, comincia a vacillare. E la cosa più assurda di questa partita è che, come abbiamo detto più volte, al Brasile bastava anche il pareggio. Ma siamo al 79esimo. Alcides Chigia si invola sulla fascia, entra in area. E a quel punto Barbosa, che fino a quel momento ha giocato bene, vede con la coda dell'occhio al centro dell'area un giocatore uruguaiano. Allora si sposta leggermente fuori dai pali, come sua abitudine, all'intenzione di tuffarsi al centro tra le gambe del giocatore uruguaiano che sta per intervenire e di intercettare la palla. E invece succede una cosa, perché Ghigia cambia idea. La pelota scivolò al suo destino, ricorda il tempo Parrigo, falhò, bola para Ghigia, centrò a bocca do gol, emendò il Schiaffino, gol do Uruguai, Schiaffino. Perché Ghigia quella palla al centro non la metterà mai. Tira sul primo palo e fulmina Barbosa, che rimane impietrito. Gol sul suo palo. Al Maracanã cade il silenzio più totale. Sugli spalti ci sono 100 uruguaiani che sovrastano con la loro voce 200.000 brasiliani. Molti iniziano a piangere e sullo stadio scende un clima surreale, il sogno si trasforma in incubo. Nessuno sa trovare una soluzione per cambiare le cose. Il Brasile prova a riversarsi all'attacco, ma è troppo tardi, il destino sta per giocare un brutto scherzo a un intero paese. Siamo al 45esimo minuto del secondo tempo, c'è un calcio d'angolo per il Brasile. Tutti i giocatori sono in area per cercare di segnare il gol del pareggio che avrebbe laureato il Brasile campione del mondo. La palla viene colpita da un giocatore brasiliano, il portiere respinge e un giocatore uruguaiano la prende con le mani. E i brasiliani alzano le mani, è rigore! Ma come? L'Uruguay sta vincendo e il suo difensore afferra la palla con due mani come se fosse il portiere. Ma è impazzito! No, non è impazzito. Semplicemente sente meglio di tutti il triplice fischio dell'arbitro e per primo capisce di essere diventato campione del mondo. non è rigore. È un mondiale vinto in trasferta al Maracanã. I giocatori della Celeste piangono per la felicità, quelli carioca per la disperazione. I 200.000 del Maracanã sono attoniti, sono in silenzio. Qualcuno piange, qualcuno si tiene la testa tra le mani, nessuno vuole guardare sugli spalti. E Moacir Barbosa, come tutti i portieri, vive questo momento in completa solitudine tra i pali della sua porta. Barbosa! Barbosa, da quel momento si sente cadere il mondo addosso. Appena 90 minuti prima, tutto il pubblico stava cantando con grande entusiasmo. Poi, dopo aver preso il terribile gol di Ghiggia, quella stessa gente era distrutta dal dolore. E Barbosa si sentiva l'unico responsabile. Sugli spalti molte persone si sentono male. Si dice che all'interno dello stadio ci furono almeno 10 morti per infarto e 2 persone che si suicidarono buttandosi dagli spalti. Una cosa pazzesca se si pensa che tutto accade per una partita di calcio. Ma questa non è una partita di calcio. In campo accade qualcosa di grottesco. La guardia di onore, le autorità, Jules Rimet in persona avrebbero dovuto celebrare il successo brasiliano. Rimet aveva addirittura preparato il discorso, ma solo in portoghese, dando per scontato che quello in spagnolo non servisse. Invece le autorità brasiliane si dileguano nel silenzio generale. Il carro dei vincitori che non hanno vinto rimane vuoto. Rimet si trova da solo a centrocampo tra giocatori uruguaiani che si abbracciano e i fotografi che documentano quel momento inaspettato e pieno di imbarazzo. Rimet, senza perdere troppo tempo, consegna la coppa a Varela, il capitano dell'Uruguay, e si allontana. Il campionato del mondo del 1950 finisce così, in sordina, nel silenzio. E da quel tragico 16 luglio viene creata una nuova parola, maracanasso, che per tutti indica una vittoria conquistata contro ogni pronostico. Sempre il pubblico è piadoso con tutti i giocatori, excepto l'archero. Per l'archero non c'è perdono. Ni compasión ni piedad. Eh sì, in una partita si può perdonare l'errore di un attaccante, ma per il portiere non c'è mai il perdono. E Moacir Barbosa, che poi questo grande errore non l'ha neanche commesso, ma non verrà mai perdonato dal popolo brasiliano, perché la sua mancata parata sul tiro di Ghiggia diventa una maledizione che tiene lontano dai campi di calcio la nazionale carioca per 2 anni. Anche i colori ufficiali della maglia vengono cambiati per dimenticare, per esorcizzare la sconfitta, e dalla maglietta bianca con il colletto blu si passa alla tenuta verde oro che siamo abituati a vedere anche oggi. 3-4 giorni dopo la partita, Barbosa fu invitato a un avvenimento sulla spiaggia di Rio e, salendo sul treno, lesse sul giornale che la stampa lo considerava direttamente responsabile della sconfitta. Di fronte a sé aveva 2 persone che appena lo riconobbero scesero di corsa dal treno. Il fatto triste fu che non solo Barbosa venne additato dalla gente, ma lui stesso sentì un forte dolore credendosi responsabile della disfatta. I brasiliani ancora oggi ricordano con dolore il maracanazzo del 1950. Beh, il tempo cancella tutto e le nuove generazioni considerano quella partita come parte della storia del Brasile, però non ne soffrono come invece chi l'ha vissuta in prima persona. Un giorno Barbosa entrò in un supermercato, molti anni dopo aver giocato la partita. Una signora molto elegante che teneva per mano un bambino lo vide e disse: "Vedi, figlio mio, quello è l'uomo che ha fatto piangere tutto il Brasile." Barbosa avrebbe forse potuto riscattarsi giocando il mondiale del 54, ma un anno prima ha un infortunio molto grave e da allora non riesce più a recuperare la forma di prima. La sua ultima partita verrà giocata in una squadra minore di Rio davanti a un pubblico di 400 persone. Per uno scherzo del destino, dopo il ritiro viene assunto come funzionario nell'impianto sportivo che si trova all'interno del luogo che ha segnato per sempre la sua vita, il Maracanã. Lui si occupa della piscina e per 30 anni farà questo lavoro, come se dovesse scontare una pena all'interno di un carcere pieno di ricordi. I suoi colleghi ricordano che spesso andava a passeggiare sul campo proprio sotto quella che veniva chiamata la porta di Ghiggia. Finalmente, un giorno la FIFA decise che era il momento di sostituire le 3 travi di legno che formavano le porte con alcune più moderne. Barbosa chiese di farsele regalare e, dopo che le ebbe smontate, le portò a casa, le fece a pezzi e le bruciò. Le fiamme sembravano ridurre in fumo la colpa che lo aveva perseguitato per tutta la vita. Ma parte del Brasile non dimentica. Quando nel 1994 viene mandato dalla BBC al ritiro del Brasile per intervistare Taffarel, il portiere, gli viene impedito di entrare per non turbare i giocatori che avrebbero dovuto affrontare proprio l'Uruguay. Moisés Barbosa è morto nel 2000, rimanendo prigioniero di quella partita per 50 anni. Chissà come avrebbe commentato il 7-1 che la Germania ha rifilato al Brasile l'estate scorsa, riaprendo forse una ferita che non si è mai chiusa. Almeno quella volta non erano al Maracanã. Non è sul secondo palo! La Germania subito in vantaggio, di rigore, la lascia lì! Klose! Milo Klose! 2-0 per la Germania! Hai vinto 6-0 in Brasile contro il Brasile, lo racconti ai nipoti, ai pronipoti, per generazione e generazione. Mette giù, poi cerca il tiro, 7-0 di Schürrle. Oscar, nella terra di nessuno, Neuer, Oscar. 7-1. Moisés Barbosa, l'uomo che per avere subito un gol sul suo palo in una finale di un mondiale ha avuto una vita segnata, 50 anni sopravvivendo a quel pallone eppure non potendo mai dimenticarselo. Noi abbiamo deciso di raccontare storie incredibili come questa, tutte diverse e tutte interessanti, una al giorno. Quindi vi aspettiamo, vi chiediamo di segnalarci le vostre idee, anche delle storie che voi volete che noi si racconti, mandando una mail a ilfalcoilgabbiano@radio24.it oppure sui profili Facebook, Twitter, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.